Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno da Nicoletta, trasmettiamo da Firenze, nella splendida location di Fortezza d'Abbasso, alla fiera più esclusiva nel settore del fashion, Pitti Uomo 84. Noi siamo allo stand The Bridge. Potete raggiungerci se volete, c'è una bella atmosfera e si respira proprio a respirarla, più che altro ci si sente subito bene. E come notavamo, tra gli stand girano modelli di una bellezza da mancare il fiato. Un modo di dire che racconta il legame tra emozioni e respiro. Provate a pensarci anche voi. Quando siamo soddisfatti, sereni, appagati, il nostro respiro è regolare, ma appena siamo invasi da un'emozione, da una preoccupazione, il respiro accelera. Quando sopraggiunge la malinconia, sospiriamo e a volte rimaniamo senza fiato, ci manca l'aria. Quando siamo colpiti da qualcosa di particolarmente bello, ma anche da qualcosa che ci fa paura. È interessante ogni tanto provare a leggere il respiro come una cartina di tornasole dei nostri stati d'animo. In linea con noi per aiutarci a farlo è il dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Buongiorno dottor Aquilar, bentornato. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Dottor Aquilar, come lei insegna nel suo libro Riconoscere le emozioni, il respiro non mente. Non solo non mente, ma ci dà una serie di informazioni utilissime sulle emozioni che noi stiamo provando e possiamo in particolare imparare, stando attenti, a descrivere il respiro della felicità, quello della tristezza, quello della rabbia, quello della paura, quello del disgusto, ma soprattutto quello della sorpresa, sia in senso positivo che in senso negativo, e credo che lì al Pitti di sorpresa positiva ce ne aiuta. Tantissime, dottor Aquilar, peccato lei non possa venire qua, perché avrebbe veramente da farsi mancare il fiato. E quindi noi, per capire meglio questo meccanismo, potremmo completare alcune frasi come gioco da suggerire ai nostri ascoltatori, che dai, è stato piace. Già messo su Facebook, sulla pagina di Essere e Benessere, e potremmo proporre ai nostri ascoltatori di completarle. Proviamo a raccontare queste frasi. Sì. Allora, sono frasi incomplete che le persone possono riempire con la prima frase di completamento che viene loro in mente. Sono cinque. La prima è: quando mi si blocca il respiro, puntini, puntini, puntini. La seconda? La seconda è: quando sono piacevolmente sorpreso, il mio respiro, puntini, puntini, puntini. Poi, la terza è: quando una persona mi piace tanto da mozzarmi il fiato. E vediamo che completamento viene in mente agli ascoltatori. La quarta è: se ho il respiro corto, vuol dire che, puntini, puntini. E infine l'ultima: se sospiro, significa, puntini, puntini. Allora, potete completare queste frasi andando sulla nostra pagina Facebook, il dottor Aquilar, e nel corso della giornata dalle vostre frasi tirerà fuori un profilo, giusto dottor Aquilar? Possiamo dire certamente. Così? Certamente, come intanto, no, c'è stato qualcuno già Flavia, che ha già risposto. Sì, e ad esempio mi ha scritto: quando mi si blocca il respiro le gambe mi tremano, se l'affanno mi costringe a fermarmi mi sento una mozzarella con il morale a terra, quando una persona mi piace tanto da mozzarmi il fiato il mondo gira, se ho un respiro corto vorrei riuscire a fermarmi e a rilassarmi, se sospiro significa che sono pronta a ripartire. Dottor Aquilar, che cosa le dicono queste risposte, questi puntini completati? Intanto i puntini completati da Flavia cominciano a dirci che c'è un'associazione tra respiro e sensazione alle gambe, quindi che l'emozione, per come viene vissuta dalla nostra ascoltatrice Flavia, collega respiro e senso di tremare, quindi probabilmente è collegata ad un senso di paura. Poi, quando l'affanno la costringe a fermarsi, Flavia si sente una mozzarella con il morale a terra. Questo ci spinge a pensare che la sua immagine visiva di sé in difficoltà è quella di una mozzarella. Noi dovremmo provare a consigliare a Claudia di sentirsi una mozzarella più simpatica, di dare qualcosa di più positivo alla sua versione di mozzarella. Sono una mozzarella in carrozza. Con il morale a terra già si sente meglio. Il terzo punto: quando una persona mi piace tanto da mozzarmi il fiato, il mondo gira. Quindi la nostra Flavia ha un capogiro, ha un'emozione di grande coinvolgimento. Benissimo. noi possiamo aiutarla a girare anche lei insieme al mondo, in modo da essere pronta a fare un'azione nei confronti di questa persona che le fa girare il mondo intorno perché le mozza il fiato. Sì. Poi ancora, la nostra Flavia dice che quando ha il respiro corto vorrebbe riuscire a fermarsi e a rilassarsi. Il nostro suggerimento è fallo, fermati un attimo, anche con una scusa, anche con un pretesto, anche dicendo di dover andare a incipriarti il naso, e tira un respiro profondo e prova a riconoscere l'emozione che hai e a scegliere quale condotta vuoi avere. Dottor Aquilar, come si dice, tira il fiato, Flavia. Esatto, tira il fiato e allontanati per un attimo, se puoi, da quella situazione che ti sembra così allarmante. E infine, se sospiro significa che sono pronta a ripartire. In qualche modo Flavia fa parte di quelle persone per le quali il sospiro significa ricomincia. Benissimo, allora sospiriamo prima. Proviamo a fare un sospiro prima, appena percepiamo la sensazione. Per prendere l'energia, insomma, ci prepariamo, si respira e si va. Ci prepariamo, stiamo attenti al respiro, riconosciamo l'emozione e selezioniamo il comportamento più adatto per portare avanti quell'emozione in maniera positiva per noi. Grazie al dottor Aquilar, intanto invito gli ascoltatori di Essere Benessere di andare sulla pagina Facebook del programma e di compilare i puntini. Il dottor Aquilar nel corso della giornata farà delle incursioni su Facebook e tratteggerà il vostro profilo. Dottor Aquilar, grazie. Perfetto, grazie a voi e buon divertimento a questo punto. Grazie, buona giornata. Ma tu, che ti senti? Che disturbi hai? Aridai, sono tossicato, non posso respirare, me strozzo. Sì. A notte devo dormire in piedi, se mi metto giù, fischio. Così? L'aria è vita, un carburante, proprio come l'acqua, il cibo, il sonno, è un indicatore preziosissimo della nostra salute e al tempo stesso uno strumento straordinario per il nostro benessere. Salute e benessere, due parole chiave che sono particolarmente care a Essere Benessere, ma anche all'ospite di oggi che è qui in studio con me, il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia. Buongiorno, buongiorno. Da Firenze. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Ho approfittato per fare questa scappata a Firenze, una Firenze stupenda. Magnifica, ma non potevo farmela mancare questa occasione, eh? Veramente hai ragione, ci sono degli spettacoli non indifferenti da guardare questa. Lei guarda sempre con l'occhio clinico, ma vero? Assolutamente, da medico non potrei fare diversamente. Dottor Gargiulo, il dottor Aquilar ci ha portato nel respiro, nel mondo del respiro, per leggere un po' le nostre emozioni. Con lei cercheremo di capire come il respiro può essere veramente la cartina tornasole della nostra salute e darci indicazioni molto preziose. Esatto, effettivamente ho sentito il dottor Aquilar e riportavo immediatamente il discorso che faceva lui sul piano fisico e mi accorgevo di come ci fosse una similitudine assoluta, queste gambe che tremano se uno respira male, sì, l'ossigeno che viene a mancare, quindi è molto bello vedere avere questa visione olistica, come diciamo noi, cioè completa di tutto l'organismo, dal cervello al corpo, e anche perché poi, ultima notazione, lei diceva salute e benessere, sono due parole che vanno insieme molto bene, ma aggiungiamoci anche bellezza, perché la bellezza è lo specchio, tante volte, non una bellezza esteriore finta, intendiamoci, ma la bellezza vera è lo specchio di una buona salute, quindi anche il respiro, anche sulla bellezza può influire, più avanti vedremo come. 800 24 00 24, vi invito a chiamarci, a scriverci al 349 238 6666. Come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter, quindi anche per essere belli, dottor Gargiulo, non solo, anche e soprattutto per stare bene, non resta che fare un bel respiro. Ma la domanda sorge spontanea: respirate in questo momento, state respirando con il naso o con la bocca? Perché questo fa la differenza, fa una differenza assoluta, soprattutto nel periodo invernale. La respirazione giusta e corretta è la respirazione con il naso. Il naso è il primo elemento che viene a contatto con l'aria esterna e che consente di far riscaldare quest'aria e filtrarla meccanicamente con le cilia presenti all'interno del naso stesso. Quindi è un'aria che scende già un po' più pulita, un po' più calda e non traumatizza i nostri polmoni. Se noi respiriamo con la bocca, tutto questo non succede, quindi la bocca è soltanto un ausiliario della respirazione. Nel momento in cui il naso non riesce a far entrare tutta l'aria che ci serve, ecco che magari facciamo subentrare anche la respirazione con la bocca. Attenzione, vuol dire che state faticando un po' troppo, perché il naso deve essere sempre quello che ci governa quando respiriamo. E solitamente si respira con la bocca in modo rumoroso la notte. Quello è un altro bel problema grosso, sia per chi dorme sia accanto, per chi lo subisce, esatto, accanto, sia per chi lo vive, perché in realtà la roncopatia, questo è il termine tecnico del russare notturno, è un segnale di qualcosa che non va nell'organismo, può essere un problema proprio meccanico legato al naso, al faringe o alla laringe, ma può essere anche un problema legato al sovrappeso, all'obesità e quindi un segnale di qualcosa che non funziona per il cuore. Quindi restate con noi se russate, se volete imparare a riconoscere i segnali che il vostro respiro vi manda nel corso di tutta la giornata, dicevamo notte compresa, ma restate soprattutto e chiamate se volete imparare ad utilizzare il respiro per il vostro benessere. È uno strumento preziosissimo, è governato dalla mente, ma vedremo nel corso della trasmissione che a sua volta il respiro placa la mente. Quindi se il respiro, come molti di voi mi stanno scrivendo al 349-238-6666, vi sta dicendo che state vivendo un periodo di stress, di ansia, di preoccupazione, restate perché sarà proprio il respiro il vostro alleato per il vostro benessere. Il respiro entra in te. Lascia che il tuo essere sia uno specchio del respiro che entra. Il respiro esce. Lascia che il tuo essere sia uno specchio del respiro che esce. E sentirai discendere su di te un silenzio straordinario. Seguire il respiro che entra e che esce è il mantra più profondo che sia mai stato inventato. Osho. Il respiro che entra, il respiro che esce, in modo continuo, fluido, senza interruzioni, in un movimento, dottor Gargiulo, che mi immagino circolare, questa è la teoria, ma nella realtà il respiro non è sempre così armonioso. Ci sono persone, ad esempio, che lo trattengono senza rendersene conto, respirano a metà, vivono un po' in apnea, si riconoscono anche dalla postura, solitamente esatto. Hanno il viso e anche le spalle contratte. Esatto, è tutta una questione di contrattura dei muscoli che consentono la respirazione. Come dicevi giustamente, la respirazione è un fatto assolutamente totalmente naturale del quale noi non ci rendiamo minimamente conto, però siamo capaci di influenzarlo. Quando abbiamo bisogno di respirare molto, possiamo tramite il cervello aumentare la capacità della nostra cassa toracica, ma il più delle volte, se siamo preoccupati, se abbiamo una tensione particolare o se abbiamo un dolore, ecco che il nostro respiro cambia, diventa più corto, più leggero, meno aria che entra. Ora dobbiamo sempre considerare che i polmoni hanno una grossa quantità di aria che, diciamo, non viene scambiata. Se noi aumentiamo questa quantità di aria non scambiata, aumentiamo l'anidride carbonica e quindi staremo sempre peggio. Parlavi prima del cervello che non funziona bene, perché effettivamente l'ossigeno è la vita del nostro cervello, quindi bisogna imparare anche questo, ogni tanto fermarsi, fare un bel respiro profondo, cioè fare una ginnastica respiratoria così come facciamo tanta altra ginnastica, e consentire al nostro polmone di espandersi meglio e scambiare la sua aria, quella che è un po' rimasta ristagnato lì dentro. Dottor Gargiulo, il problema è che noi respiriamo di continuo e noi non prestiamo attenzione al nostro respiro. Possiamo poi lavorare sul nostro respiro e quindi fargli cambiare il ritmo, accelerarlo, certo, o rallentarlo. Ma il fatto che respiriamo senza rendercene conto è una sorta di salvavita, perché respiriamo, certo, anche la notte, quando dormiamo il diaframma funziona. Ecco, molti di noi, dicevamo, non si rendono conto di avere un respiro a metà. Lei ha sottolineato l'importanza di fare un bel respiro, una sorta di stretching per i nostri polmoni, per rimetterli proprio, riempirli in modo adeguato. Ma ci sono dei segnali che il nostro respiro ci manda, situazioni in cui non dovremmo accorgerci di respirare e invece sentiamo che il respiro si fa corto, manca, si spezza, accelera. Beh, sono quelle situazioni, ad esempio, di infiammazione dei nostri bronchi. Lo sa bene il fumatore, un fumatore che cerca di tenere il respiro, non se ne accorge, ma lo tiene più superficiale, perché se respirasse più a fondo comincerebbe a tossire. Ancora chi soffre di asma, ad esempio un asma bronchiale, porta quel rumore, quel fischietto all'interno dei nostri polmoni che non ci consente di fare un'espansione completa, quindi anche lì è una respirazione più superficiale, più leggera. Ecco, tutti elementi di cui non ci rendiamo conto, perché compaiono piano piano, fino al momento in cui questo si trasforma in una vera e propria insufficienza, cioè incapacità dei nostri polmoni di fornire tutto l'ossigeno che ci è necessario. E allora che facciamo? riduciamo l'attività fisica, magari ci muoviamo meno, non facciamo più una rampa di scale, non facciamo più tante cose che non ci portano ad affannare, quando invece dovremmo cambiare modalità di respirazione e dovremmo migliorare, anche eventualmente nell'asmatico con i farmaci, la possibilità dei polmoni di espandersi e di far entrare più aria. Quindi se il vostro respiro vi manda dei segnali un po' strani, vi accorgete che manca, si spezza, sentite un leggero fischio, avete difficoltà magari a fare le scale o il vostro respiro vi sveglia nel cuore della notte, 800 24 00 24. E in questi giorni di grande caldo noi ci ha fatto tenere un po' il fiato sospeso quest'estate perché sembrava non arrivare mai, e adesso invece ci fa boccheggiare dal caldo. Il caldo è arrivato, il respiro si fa diventa un po' più corto, andiamo in cerca di aria. Caldo, come caldo questo sole, come calda la tua pelle che si brucia sulla sabbia, anche il mio cuore caldo. E in linea con noi abbiamo il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Dottor Speciani, buongiorno. Oh, buongiorno, è anche un bel giorno oggi, bello, caldo finalmente. Finalmente caldo, ma devo dire che si boccheggia. Sì, però mi piace che ha detto che fino adesso avevamo il fiato sospeso, adesso stiamo boccheggiando, sempre di respiro si parla, è il motivo per cui Gargiulo è lì a chiacchierare di questo. Certo. Buongiorno. Buongiorno, caro. Ed è un bel tema, perché adesso userò una frase di quelle che non si usa mai, e non ci sono più le mezze stagioni, dai. E invece si possono fare un mucchio di cose, devo dire, perché di fronte a questa cosa che in realtà è rappresentata soprattutto dal cambio, noi ci confrontiamo con una situazione che non conosciamo. L'organismo di solito si abitua a dei cambiamenti graduali, gentili, come le note della Vanoni di adesso ci aiutavano a entrare un po' in una dimensione. Che bella, sì. Una dimensione dolce. E invece quando le cose sono pac, così improvvise, noi siamo un pochettino più sofferenti. In realtà, su una situazione del genere, alcuni minerali, alcune frutte e verdure ci aiutano. Ad esempio, chiaramente, proprio perché c'è questo rapporto caldo e freddo, come dire, che si confrontano, la gestione del trattenimento dei liquidi è fondamentale. Quindi il bere, lo sappiamo, è uno degli elementi cardinali. Qualsiasi persona oggi affronti il tema del calore sa che deve bere, ma soprattutto anche utilizzare qualcosa che trattenga l'acqua nei posti giusti. Questo è fondamentale. Se noi ad esempio mangiamo cibi ad altissimo contenuto di cloruro di sodio, e li cito per tutti, pane, cracker, grissini, formaggi, biscotti, pizza, salatini, cose di questo genere, l'acqua viene spesso trattenuta in queste orride di tina a forma di salsiccia, no? Che poi diventano problematiche, cioè l'acqua non sta nei posti giusti e quindi manchiamo di energia e di forza. Per cui io lascerei, questa cosa vale come indicazione di massima, soprattutto verso sera, la gente deve poter mangiare il salato, quindi le caprese, le pizze, le cose, quando la temperatura cala. Durante il giorno mangiamoci del sano magnesio, del sano potassio, che troviamo in un mucchio di cibi simpatici, si possono a volte anche fare delle integrazioni. Tra tutte, parliamo del potassio ad esempio, abbiamo albicocche, prugne, patate che possono sostituire tranquillamente il pane. La patata bollita, almeno durante il giorno, diventa un ottimo elemento per avere del potassio e della vitamina C e per funzionare adeguatamente. La stessa pasta, il frumento, gli spinaci, i kiwi, i finocchi e, che io non dimentico mai, le noci, così ritorniamo a questo rapporto che si respira meglio, che sono dei contenitori forti di potassio. E poi lo dico per il magnesio invece, che è un altro dei sali che possiamo raccogliere in maniera fantastica. La bacca che maggiormente contiene magnesio è il cacao, è questo, per cui il cacao, che però deve essere, che è vero che adesso col caldo si scioglie tutto, no? Però sommato ci piace pensarlo come stimolante generale, ci aiuta a stare in equilibrio. Quindi ecco che abbiamo proprio da frutta, verdura fresca, dei contenitori, delle sostanze che ci aiutano anche a mantenere equilibrata l'acqua nel posto giusto per avere anche l'energia per affrontare il calore. Possiamo riuscire ad adattarci a tutto, vuoi non adattarci a un po' di caldo, però dobbiamo farlo in modo adeguato, idratandoci, mantenendoci, mangiando verdure fresche, mangiando Dottor certi Speciani, tipi di verdure. Almeno 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno, meglio a temperatura ambiente? Ma guarda, su questo è discutibile, perché usualmente si dice un po' come vecchia tradizione, però devo dire che anche il freddo, cioè l'acqua fredda, ha un'azione di riduzione del caldo interno, quindi se nessuno ha gravi coliti, forme di gastrite acuta, se la gente è abituata a bere dell'acqua fredda, l'acqua fredda aiuta, non immediatamente dopo uno sforzo eccetera, però aiuta comunque ad avere un apporto interno di qualcosa di positivo. Come quando... Ecco, bevete, dottor Speciani, bevete anche se temete di sudare. Molte persone sudano tanto e magari si imperlano proprio nel viso, temono, hanno una sorta di timore perché incontrano persone, sono madide, ecco, e sono le persone che allora stanno un po' indietro, non bevono per non sudare, si suda ugualmente, anzi, e bevete ugualmente, quindi, vero dottor Speciani? Assolutamente, sia che si sudi sia che non si sudi, dal punto di vista pratico è fondamentale. Ecco, non perché... facciamo mancare al nostro organismo la corretta idratazione, dottor Speciani, ho detto bene? Ha detto perfettamente. Magnifico. Quindi grazie. Acqua e aria che si sposano in questo momento. Grazie dottor Speciani, la saluto da Firenze, le mando un bacione. Ah, che bello, più che gradito, che bello. Grazie, grazie a dottor presto. Speciani. Essere e benessere. E noi siamo tornati, siamo a Pitti Uomo, facciamo un bel respiro. Perché è di respiro che parliamo oggi insieme al dottor Gargiulo, strumento di benessere, è quasi una sorta di terapia, certo. Del nostro benessere emotivo e psicologico. Vi rimando naturalmente sulla pagina Facebook per compilare le 5 frasi proposte dal dottor Aquilar, compilate, ci sono dei puntini, la prima frase che vi viene in mente, il dottor Aquilar nel corso della giornata descriverà e tratteggerà il vostro profilo, vi dirà se e come riuscite a vivere bene le emozioni, ma noi oggi approfittiamo del dottor Gargiulo per capire come leggere il nostro respiro. All'800 24 00 24 alle vostre telefonate, e abbiamo Giovanni dalla provincia di Milano, Paolo da Lodi, Eugenio dalla provincia di Cuneo ed Emanuele da Latina. Facciamo un'infornata. Benissimo, tutta pronti? Pronti. Dottor Gargiulo, pronto? Prontissimo. Respiri a fondo e vai. Giovanni dalla provincia di Milano, bonjour. Pronto, eccolo. Buongiorno. Eccolo lì, buongiorno a lei. Io brevemente faccio sport in modo leggero, sono consapevole che respirare col naso è meglio, però il problema è che ho praticamente quasi tutto l'anno il naso otturato in entrambe le narici, cioè quasi parzialmente, diciamo, quasi totalmente, e per cui appena vorrei fare più sport, però mi accorgo che poi inizio a respirare con la bocca e ho anche problemi nel linguaggio, cioè mi accorgo che ho proprio difficoltà nella respirazione, cioè vorrei un consiglio, che strada intraprendere per insomma risolvere... Senta, ma Giovanni, ma lei li fa i lavaggi nasali? Bene. Faccio il dottor Gargiulo in gonnella. Ma lei li fa i lavaggi nasali? Io? No. Sì, il dottore me lo dice di farli, ma io non li faccio. Ecco, va bene, adesso allora le passo il dottor Gargiulo. Abbiamo fatto una specie di selezione. Giovanni, il medico gli dice di fare una cosa, ma come facciamo tutti noi, lei lo sa, giustamente, non vi sentiamo. Capita spesso. Allora, intanto, se non respira col naso, la cosa più probabile è che siano ipertrofici quei turbinati, cioè quelle zone del naso dove l'aria deve passare, turbinare appunto per riscaldarsi. Se sono troppo gonfi, troppo grossi, impediscono all'aria di passare, e questo succede soprattutto quando abbiamo più bisogno di aria, quindi quando i nostri polmoni ci richiedono di più. Se non fosse una questione di ipertrofia dei turbinati, potrebbe esserci una deviazione del setto nasale che impedisce a una delle due narici di funzionare così bene. Ancora potrebbero essere quelle cosiddette riniti vasomotorie, cioè quei raffreddori che non vengono dai virus ma vengono da un difetto di circolazione. In tutti questi casi una buona terapia, eventualmente con un cortisonico per uso locale, associato ai lavaggi nasali che ahimè sono fondamentali. Giovanni, sempre, provi comunque a fare questi lavaggi nasali, e non sono difficili, è così facile, non sono neanche così invasivi, possiamo utilizzare all'inizio magari anche dell'acqua senza sale, poi aggiungere un pochino di sale all'acqua, oppure delle soluzioni di sale marino, fare questi lavaggi con una siringhetta mandando dentro leggermente quest'acqua, quasi a goccia, Poi dopo un po' ci si abitua a quest'acqua che scende giù e non dà più nessun fastidio, ma fa una pulizia completa del naso. Paolo ci chiama da Lodi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno al dottor Gargiulo. Buongiorno a lei. Buongiorno. Ci racconti. Buongiorno. Vorrei fare una domanda per quanto riguarda l'asma. Vorrei chiedere se nei soggetti asmatici, un soggetto asmatico che a cui capita di notte di svegliarsi col fiato corto, se l'aria condizionata appunto di notte non troppo forte può portare un beneficio o se è controproducente. Ha scelto la parola giusta, non troppo forte, e se è un'aria condizionata che consente una riduzione della temperatura rispetto all'esterno di quei 3-4 gradi, va benissimo per l'asmatico perché gli consente di migliorare la respirazione. Due cose stare molto attenti, uno che non sia appunto troppo freddo perché questo non farebbe bene e due che i filtri siano molto puliti perché l'aria condizionata è uno degli elementi che porta degli allergeni che in un asmatico potrebbero scatenare una crisi. Quindi tutto sommato meglio le pale. No, nell'asmatico forse è meglio l'aria condizionata, perché il raffreddamento dell'aria che dà l'aria condizionata è quello che ci vuole, è un'aria un po' più fresca e all'asmatico fa meglio sicuramente. Però occhio ai filtri. Occhio ai filtri, quello va per tutti e per gli asmatici in particolare. Eugenio, buongiorno a lei, ci chiama dalla provincia di Cuneo all'800 24 0024. Buongiorno. Senta, io avrei una serie di domande in realtà, perché odiando l'idea di senso che odiando io l'idea di andare dal medico, non mi sono mai detto chiamo la Nicoletta, così è fatta. Allora Eugenio, io devo dire che posso le chiederei di fare quella che le sta più a cuore. Poi ci scrive e noi magari giriamo la sua domanda al dottor Gargiulo, perché abbiamo tanti ascoltatori che come lei vogliono parlare con noi. In realtà grazie, è perché proprio va. Veniamo alla domanda, grazie. Io soffro di apnea notturna. Sì. Quali sono i rischi? Qual è l'iter, diciamo, medico per scoprire che tipo di apnea è? Insomma, cioè come affrontare il primo impatto per un consulto medico? Perché mi hanno detto che è pericoloso, io però, insomma... Da russatore si preoccupa, Eugenio. Proprio io mi sveglio che non riesco, cioè che non so più come respirare. Cioè proprio mi sveglio. Esatto. Allora attenzione, per tutti quelli che come Eugenio si svegliano nel cuore della notte e non sanno esattamente cosa stanno facendo, come respirano, manca il fiato, o per le persone che vivono accanto ad una persona che dorme e russa come Eugenio, i consigli del dottor Gargiulo. Sì, l'apnea notturna spaventa sia chi la subisce sia chi sta accanto ad una persona con le apnee ed è abbastanza pericolosa, ma durante il giorno, non durante la notte. Infatti ci si sveglia, proprio perché prima con Nicoletta dicevamo il nostro cervello ha dei sistemi di controllo, come l'anidride carbonica aumenta un pochino, cioè come non si respira più, immediatamente ci risveglia e ci fa respirare, e quindi quello non è un rischio. Il rischio vero è di giorno, perché un sonno così disturbato è un sonno che di giorno non riposa e quindi di giorno ci possono venire degli improvvisi colpi di sonno, soprattutto magari quando siamo alla guida dell'auto, un po' di riverbero del sole, momenti un po' più difficili ci possiamo addormentare, o se ad esempio per lavoro siamo alla guida di macchine che possono essere un pericolo per gli altri. Quali sono gli esami per fotografare le nostre apnee? La prima cosa è sicuramente una visita dall'otorino, lo specialista che controlla orecchio, naso e gola. La seconda cosa è un centro per lo studio dei disturbi del sonno. Lì si fa quella che si chiama polisonnografia, si studiano bene i disturbi del sonno e poi si consiglia un dimagrimento se si è sovrappeso, una modifica anche chirurgica delle vie aeree o l'utilizzo del CPAP, che è una maschera che si mette di notte e fa inalare più ossigeno e impedisce questi risvegli. A volte quando respiriamo, sono diversi gli ascoltatori che me lo scrivono, respiro in modo profondo e mi gira la testa. Abbiamo detto che c'è un legame tra respiro e mente e cervello, ma se questa è la relazione diventa così fastidiosa, allora non ci piace più. Ma è talmente vera questa cosa che quando io allo studio devo visitare un torace raccomando al mio paziente di fare dei respiri lenti e profondi, perché se fa due o tre respiri veloci immediatamente gli gira la testa, perché il troppo ossigeno diventa tossico per il nostro cervello. Anche quando noi facciamo utilizzare l'ossigeno nelle ossigenoterapie consigliamo di interrompere ogni tanto. Troppo ossigeno porta a questa sensazione di ubriacatura e quindi a questa vertigine. Abbiamo parlato di respiro e giramenti di testa, a volte respirando sentiamo un fischio, viene una leggera tossetta. Potrebbe essere il reflusso? Essere e benessere. Stiamo tornati insieme dopo le informazioni sul traffico. In studio qua con me il dottor Carlo Gargiulo, stiamo parlando del respiro. Ci sono respiri che fischiano, dottor Gargiulo. Abbiamo avuto prima l'esempio dell'ascoltatore con l'asma, ma ci sono respiri che fischiano magari per un reflusso, come dicevi giustamente, un reflusso gastroesofageo, cioè l'acido che dallo stomaco risale nell'esofago si diventa un aerosol infernale vero e proprio, che rovina un pochino le corde vocali, rovina il faringe e ci porta a questa respirazione, una tossetta secca e una respirazione fischiante. A volte un controllo dal gastroenterologo potrebbe risolvere un problema fastidioso. E soprattutto la tosse viene di notte, sembra la tosse viene di notte, esattamente, perché stando sdraiati si perde la continenza di questa valvola, il cardias, e quindi l'acido può risalire facilmente. Un rimedio molto semplice è dormire su due cuscini, già quello ci aiuta un po' in attesa di avere una diagnosi. 800 24 0024, se volete parlare con noi. Intanto noi ci occupiamo dell'altro lato del respiro. Abbiamo detto che il respiro è un ponte tra corpo e mente, lo yoga naturalmente su questo lavora, aiuta a mettere in comunicazione proprio queste due parti di noi che sono due facce della stessa medaglia. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Susy Stefanini di Yoga and Meditation Training. Ciao Susy, benvenuta. Ciao Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori. Intanto ricordo che potete andare sulla nostra pagina, sulla pagina del programma, per seguire le lezioni di Susy Stefanini e Daniele Belloni sulla meditazione e sull'importanza del respiro. Iniziamo a capire che la respirazione, lo facciamo tutti, anche le persone che non frequentano un corso di yoga, può procurarci grande benessere, soprattutto se fatta in modo corretto, quindi lavorando sul diaframma, quello che Daniele Belloni ci invita sempre a fare, e con lui Susy Stefanini, è ombelico mobile, la pancia si deve muovere mentre respiriamo. Ma Susy, anche per oggi tu hai un esercizio per noi. Certo, è un esercizio che ci può aiutare a partire proprio dal corpo, dalle articolazioni e dai muscoli, e arrivare attraverso il respiro proprio a un'integrazione profonda del corpo e della mente. Se volete lo possiamo fare assieme. Ok, noi siamo pronti, anche il dottor Gargiulo, vai Susy. Benissimo, allora ci possiamo sdraiare oppure anche sederci comodamente su una sedia e utilizzeremo tre respiri per rilassare il corpo. Dunque, con la prima inspirazione attraverso le narici, chiudiamo le mani a pugno, cerchiamo di attivare i muscoli delle braccia e delle gambe e creiamo quindi una tensione muscolare crescente. E poi espiriamo lentamente dalle narici e lasciamo andare, lasciamo rilassare ogni tensione, lasciamo andare ogni attivazione. E poi ripetiamo ancora, inspiriamo, attiviamo le braccia, le gambe, stringiamo le mani a pugno e contraiamo anche i muscoli del viso, aggrottiamo la fronte. E poi espiriamo, lasciamo andare con un'espirazione che sia lunga, completa, e rilassiamo, sciogliamo ogni tensione. E ancora una terza volta, ora ci concentriamo anche sui muscoli del viso, quindi quando inspiriamo aggrottiamo la fronte, strizziamo le palpebre, spalanchiamo la bocca, digriniamo i denti, e adesso espiriamo, lasciamo andare, rilassiamo. E visualizziamo adesso il nostro respiro che è un po' come un'onda che fluisce dai piedi al capo quando inspiriamo, un po' come se tutto il corpo stesse respirando. E l'onda del respiro attraversa l'intero corpo fino alla sommità del capo, e quando espiriamo l'onda del respiro attraversa l'intero corpo discende fino ai piedi. Ripetiamo ancora, e questa volta visualizziamo come un flusso luminoso, un flusso che crea spazio dentro di noi, come un'onda trasparente che genera energia, e mentre espiriamo il flusso di energia diviene un flusso grigio che porta all'esterno del corpo attraverso i piedi tutte le tensioni e tutte le contrazioni. E mentre ripetiamo ancora qualche minuto liberamente, anche un paio di volte al giorno, sentiamo che quando inspiriamo portiamo energia, forza, positività dentro di noi, e quando espiriamo lasciamo andare tutte le tensioni e tutte le negatività. Fantastico. Questo ci può aiutare moltissimo. Assolutamente. Noi naturalmente vi metteremo a disposizione questa respirazione guidata di Susy Stefanini, che parte appunto anche dai muscoli, dalla contrazione muscolare. Potete riascoltarvela e lavorare sul vostro respiro nel corso della giornata. Grazie a Susy Stefanini. Grazie a voi, arrivederci. Dottor Gargiulo, noi abbiamo un minutino per salutarci con una raccomandazione per i nostri ascoltatori. Ricordatevi di respirare. No, per fortuna ci pensa il nostro cervello e non c'è bisogno di ricordarsi, ma ricordatevi di fare un po' di ginnastica con il respiro e di valutare il respiro di chi è vicino. E diciamo, chiudiamo con una frase di Neruda. Dai. Vorrei vivere nel tuo respiro mentre ti guardo e muoio per te. Ma dove l'abbiamo trovato questo dottore, che è anche un poeta? Grazie, beh, dottor rubato, Gargiulo. Grazie a voi. Grazie per essere stati con noi. Io vi aspetto domani qui, sempre da Firenze. Se volete scriverci, se volete venire a trovarci, noi siamo qua. Grazie, buon respiro a tutti da Nicoletta. Essere e benessere.